sessualmente ambiguo, è ambiguo, perché da quello che fa capire gli piace anche un trans. A me il trans proprio non esiste. A Cruciani piacciono i trans? Ma lui l'ha dichiarato, cioè che se dovesse capitare un trans non avrebbe problemi. Quando chiama quella turca, il turco, come si chiama? Efebal. Efebal. Eccoci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Efebal. No, non ho detto gioia. David, 60 giorni radiofonici e abbiamo finito di ascoltare la zanzara. Alleluia. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo. Andiamo a prenderci un caffè da Vanni e non sentiamo più gli involuti, i disadattati, parleremo di Hullebeck, parleremo del San Maria Volonté, non sentiremo più Fabrizio Bracconeri, non sentiremo più Spadalino. Bravo, bravo. Perché vuoi togliere la parola alla gente? Vuoi togliere la parola alle persone? No, voglio togliere la parola ai mediocri. Sì, basta. E chi lo decide se uno è mediocre o no? Uno non vale uno, tu hai fatto un capolavoro perché tu hai sentito l'uomo della strada che esibiva analisi senza averne la minima conoscenza e allora che hai pensato? Mo crea un'arena dove tutti possono dirla loro, dove sicuramente regneranno incompetenza, ignoranza e arroganza. In queste settimane che cosa hanno dimostrato, diciamo, i famosi competenti? In queste settimane i famosi competenti, a partire da virologi, epidemiologi, mia nonna in carriola, Organizzazione Mondiale della Sanità, governi, controgoverni, sottosegretari, che cosa hanno dimostrato secondo te? Di essere una grande e magnifica zanzara. Questa è la realtà dei fatti, questa è la realtà. Un altro anno gli serviva la Germania per vincere la guerra, un altro anno. Via! Mi piace scopare, mi piace i cazzi, mi piace che mi sbattono i cazzi in faccia, mi piace prendere i cazzi. Sapete che le banche sono i primi usurai, che sono dei parci e dei ladri che ci rubano tutto. È ora di finirla, andate a fare il culo! In queste settimane che cosa hanno dimostrato, diciamo, i famosi competenti? Anche l'ultimo stronzo dei virologi ha più competenza di un Fabrizio Bracconeri. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri e mi scopo Giusy Ferreri. Te sei un gran paraculo sei. Cretino di poc'anzi. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo. Montarosa 91 Milano 20149, questo è l'indirizzo di questo bunker. Ancora immuni, grazie alla corte. Credo sia a Roma, non lo so, credo sia a Roma. Nessun collegamento oggi né dal salone né dal terrazzo né da altri posti. Inquiete assoluta, pace, nulla facenza. Naturalmente ben oliato, ben pagato naturalmente dai signori della Sette, dai signori della Confindustria, ha passato una giornata intera a non fare sostanzialmente un cazzo alle mura domestiche. David Parenzo, eccolo qui. Io dico solo, guarda, sono solo le 18:30 qua, dico solo porca miseria, guarda. Sei incredibile. Porca miseria. Diciamo la posso verità, ho passato la giornata senza fare un cazzo e ho ricevuto puntuale, al contrario di baristi, parrucchieri, ristoratori e varie categorie, puntuale ho ricevuto, riceverò oggi che giorno riceverò il giorno 23, 24, 27 di maggio l'assegno dai signori della Sette e dai signori di Confindustria. Io dico solo questo, ragazzi, dici la verità, dici una cosa che è vera, per fortuna, voglio dire, ma a parte che i giorni lì dipende, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, cioè tu metti nei panni, mettiti nei panni, per esempio. Ma tu ricevi lo stipendio fisso o no? Io sono qui sul fronte della Lombardia. Tu sei addirittura assunto. Sono in radio. Cose che io non sono. Tu sei addirittura assunto. Cose che io non sono. Tu sei addirittura assunto. Quindi avrai la 13ª, la 14ª. Diciamo agli ascoltatori che quando tu vuoi trasmettere anche dei giorni festivi, il 1º maggio, tu prendi 3 volte lo stipendio. Perché sei assunto. Io sempre la stessa cifra. Tu 3 volte, perché sei assunto. Io sono precario, tu sei assunto, prendi 3 volte lo stipendio. Perché ci dobbiamo diffamare già alle 18:38? Perché? Perché la gente sappia. Quando tu dici, perché? All'azienda, io ad esempio all'azienda dico, scusa, il 25 aprile non fate la zanzara, è festa. Cruciani, sappiate che per dire quelle stronzate prende 3 volte lo stipendio, ma in azienda lo sapranno, perché è considerato un super festivo. Tu super festivi vengono pagati 3 volte, a me 0 invece, perché sono un precario a partita IVA, quindi ragazzi, questo è evidente. Sappiate che questo signore, cosa ho fatto io tutto sappiate che questo signore non ha fatto una sega. E sentiamo ora invece i baristi a Milano, invece i baristi a Milano che volevano riaprire vengono multati. Sentiamo Porro subito. Ma invece oggi ho scritto ho scritto un cazzo. No, ho fatto un grande lavoro oggi per... Questo è il paese in cui si multano baristi e ristoratori nel centro di Milano, che in maniera veramente garbata, in maniera istituzionale direi, manifestano, ma non si multano quelli che vanno a manifestare per il 25 aprile, perché il 25 aprile in un paese comunista si può celebrare se c'è Bella Ciao e la bandiera rossa. All'attacco, Porro, all'attacco, vai! Non si può celebrare il fatto che stanno morendo di fame baristi e ristoratori il giorno in cui Conte capisce di aver sbagliato e dice che alcune regioni potranno aprire bar e ristoranti il 18 in anticipo, ma la manifestazione dei baristi non è legittima. Bisognerebbe chiedere scusa ai baristi, non gli si mette una multa. Io vorrei che per un attimo, un solo attimo della loro vita, quelli che ci comandano e che ci guidano sapessero che cosa vuol dire gestire un bar. Io non lo so. Beh, amico mio, devo dire la verità, in questi giorni ho parlato con moltissimi baristi. Ho parlato con moltissimi baristi che sono incazzati neri, hanno visto il loro fatturato scendere del 30, 40, 50%, se non addirittura di più. Vedono neri anche i prossimi mesi. Beh, certo. E invece, al contrario, tu ricevi puntualmente i bonifici sia dalla Sette che da Confindustria. Ma non sono l'unico lavoratore italiano che per fortuna riceve lo stipendio, sapere. La gente deve sapere che tu invece sei un assunto a tempo determinato, guadagni 300.000 euro l'anno, pure le marchette che fai a Mediaset, perché ogni volta che vai a Mediaset danno almeno 10.000 euro a seduta ogni volta che vai, per quello tutti i giovedì vai, cioè con tutte le tue stronzate che per 5 minuti spari il giovedì a dritto e rovescio da Del Debbio, ci pagheresti uno stipendio di un barista di un anno. Questo la gente comunque, io invece no, questo la gente lo deve sapere tutte le volte, sapere, cari amici, che vedete Cruciani seduto nello studio di Del Debbio, perché non ti pagano da Del Debbio, forse non ti pagano. ma di che ti pagano. Allora il barista deve sapere che questo demagogo qua, ogni volta che ma si siede dal Debbio per sparare contro il governo e accarezzare Salvini, gli arriva sul conto corrente un bonifico che equivale nel giro dell'anno a quello che un barista guadagna sulla qui salaria. La questione è un'altra. Questo è il tema vero. Sono altro che il sottoscritto. La questione è un'altra. Sono che ha passato la giornata a inventare format, a scrivere, a lavorare. Sì, sì, sono certo, a innovare il sistema televisivo italiano. Sono i signori del governo che dovrebbero mettere denaro contante nelle tasche dei baristi, nelle tasche dei ristoratori chiusi. Denaro contante, 10, 20, 30 mila euro a botta, invece di distribuire soldi a cazzo di cane. Dovrebbero mettere soldi in tasca. Quanto fatturavi tu il mese scorso? 10.000, ecco 10.000. Sarà il mondo di Fantasilandia, direi te, no? Dove immagini di stare? No, no, gli economisti. È probabile quello che... è il punto. No, no, no, solo è probabile quello che è il punto. Quei soldi che hanno dato saranno a fondo perduto. Questo ma si probabile, sta già dicendo forse, in queste ore. Come, cioè, perché? È molto, ma vergogna. È molto probabile che i soldi Capezzone, che le aziende Capezzone. Che c'è di male, Capezzone? Che è un altro, è un signore che non ha mai lavorato in vita sua, ad esempio. No, questo non lo puoi dire. Questo non lo puoi dire. Mai. Fatto politica, nel partito radicale, in tanti posti. Tu diresti così, tu di populista. Diresti mai lavorato in vita sua, ma che vuol dire? Fa, ma di che lavoro fa Capezzone? No, cosa ha fatto fa politica Capezzone? Tanti anni, che vuol dire? Adesso che fa l'opinionista in TV, siede da, ecco, siede lì e dice 1, 2 e 3, conta, perché tutti i suoi interventi, ma lui conta. Ognuno questo ha un suo modo di dire, dice, un suo modo di fare. Questo prima fa Capezzone, cosa, è, prima remunerato uno. Per contare, beh, allora, qual è numero uno, secondo, terzo, e poi dice vergogna. Allora lui inizia così, conta, lui è pagato per contare fino al 3, perché più di 3 non dice in questo genere, signore, e poi dice che vergogna. Questo signore che sta parlando, questo signore che sta parlando, ha passato la giornata a pensare a no, format televisivi. No, a scrivere, riceve a lavorare, un autoassegno dalla 7 da Confindustria, no, mentre i baristi muoiono di fame. La realtà, ma questa è la vera, la verità, nuda e cruda, nuda e cruda. Monterosa è assunto a tempo indeterminato, e in più fa le marchette alla Mediaset, e in più fa le marchette alla Mediaset. Dove vogliamo arrivare? Io non lo so dove vogliamo arrivare. Io voglio dire, ma che paese è un paese che rimanda ai domiciliari 300 mafiosi, incluso quello che faceva il carceriere del bambino sciolto nell'acido, e poi quello stesso Stato, attraverso le sue forze dell'ordine, multa dei baristi e dei ristoratori che vogliono semplicemente lavorare? Capito? Cosa c'entra? Capito? Cosa c'entra? Libere cosa mafiosi c'entra? E multe ai ristoratori. Ma liberi cosa c'entra? Oggettivamente, cioè, ma liberi cosa mafiosi c'entra? Ma e puniti i ristoratori. Non c'entra nulla. Uno, io voglio dire, uno, vergogna. Perché che Stato è lo Stato? Ma vergogna, lo diciamo noi, perché hai sputato sulla tua storia radicale quando ti occupavi dei detenuti e dei carcerati. Altro che... Ma ragazzi, ma voi veramente volete che la gente si rivolti, o peggio, che la gente arrivi a momenti di disperazione? Perché qualcuno il bonifico sicuro ce l'ha il 27 a fine mese. Quegli imprenditori, quei bar, quei ristoratori, quei balneari, no. Parla di se stesso però. Quei balneari, no. Quei ristoratori, no. Voleva dire lui, Parenzo, il bonifico sì. Sicuro, voleva dire il Parenzo bonifico pure. Sicuro lì parlava a se stesso, perché il bonifico sicuro che gli danno dalla Verità e via Mediaset, per sua fortuna, quindi non glielo vorrei mai togliere, io gli arriva, quindi era la sua autobiografia quella lì. Spiegami per quale ragione stare in fila a prendere la pizza non è pericoloso e invece stare seduto a 2 metri di distanza diventa pericoloso. Per questo lo dico, siete pazzi, voi volete uccidere una serie di attività. Siete pazzi, siete pazzi. Allora ragazzi, ci sono due cose incredibili che ho letto allora, oggi. Allora uno. No, no, uno, no, no, ferma. Allora, ci sono uno. Due cose incredibili che ho letto oggi che vi voglio dire, che sono... non pazzesche, di più. Hai che... letto? Cos'hai fatto tutto il giorno? No, hai letto anche ma... tu allora? No, vedi? Ti dico anche solo tu questo. Tutto vengono che presentate, hai letto no, tutto vengono il giorno, presentate come delle cose incredibili, no? Rilanciate. Milena Gabanelli, ma voglio benissimo, Milena Gabanelli, grandissima. Però ci dice ci spiega come una corretta alimentazione riduca lo stato infiammatorio che porta all'alterazione del sistema immunitario. Cioè se lo dice Red Ronnie è un complottista. Se lo dice il nostro amico, come si chiama? Il professore che chiamiamo, no professore, per carità, il medico che chiamiamo ogni tanto, quello della dieta del gruppo sanguigno. Quale mediche? Quello è un criminale, tu lo insulti, cioè, lo dice Milena Cabanelli che il sistema immunitario ci protegge da qualche cosa, ci protegge dal coronavirus. Ma questo la è una cosa che... inchiesta. Ma questa è una cosa che sanno tutti. È una cosa che sanno tutti, su allora cui non dillo che è una banalità, dillo che è una banalità. No, altra ma è una cosa che ci ripetono tutti da anni. Ma altra cosa, diciamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tu senti, noi paghiamo questi signori per dire questa roba che ti sto per noi enunciare. Paghiamo, altra cosa. Indirettamente paghiamo questi signori dell'OMS. Che modo di ragionare? Ci viene a cosa dire... vuol dire? Attenzione, è allarme anche per la salute mentale. Ansia, paura, depressione in tutto il mondo, in particolare in Europa. Cioè noi dobbiamo scoprire oggi, all'inizio di maggio, quando già lo sappiamo sulla nostra pelle, per quelli che chiamano qui naturalmente e per altri motivi, che il coronavirus porta con sé anche problemi di salute mentale. Ansia, paura, depressione. Ce lo viene a dire magari in un ampio studio appunto, pagato. Quello è il titolo di uno di studio, migliaia, certo, da migliaia, certo, e migliaia di signori lautamente. Non devono essere fatti gli studi? Ci vengono a dire che c'è allarme per la salute mentale, quando lo sappiamo dal primissimo giorno. L'OMS, aboliamola! Facciamola fuori, chiudiamola! Eccolo, chiudiamola, eccolo questo qua, baraccone pazzo, inutile! Chiudiamolo! Baraccone. Fermi tutti. Tutto un baraccone. Quanto mi fa godere il direttore all'attacco di Parenzo. All'attacco. Avanti tutta, direttore! La zanzara. Ecco amici, la storia precedente era un grande indizio per l'argomento che tratteremo stasera 21:30 nel nostro tutorialino e tutorialetto. Andremo a sviscerare bene bene il mare magnum dell'argomento culame. E che cos'è? Seguitemi, parleremo di culame in generale. Visitos! Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Parenzo, sei un grande maleducato. Fai pena, vergognati, che parli sempre sopra le persone, soprattutto quando dicono la verità. Vergognati, cafone maleducato, cafone maleducato. Eccolo. Altra cazzata che viene dall'OMS. Guarda ragazzi, una cosa oggi. Chi è? David, che cos'è? Altra cazzata che viene dall'OMS. Ragazzi, ma è incredibile, incredibile. Questi qua parlano e dicono delle cose che noi già sappiamo. Li paghiamo per avere cose nuove, non per cose che già sappiamo. Non mi ricordo chi dell'OMS, un tale Guerra, non so chi, ha fatto oggi un'intervista in cui si dice che in Italia ci potrebbe essere più di 3 milioni di contagiati. Cioè l'OMS ci dice a noi che abbiamo più di 3 milioni di contagiati. Ma l'ha detto qualche giorno fa anche in questa disgraziata trasmissione il viceministro Sileri. L'OMS ce lo dice, ma che cazzo ce ne facciamo? Ma cosa ce ne facciamo dell'OMS? Ce ne facciamo e come cosa ce ne facciamo? Perché non informi, non ti informi, non lo vuoi raccontare. È più comodo dire spariamo su questi organismi di cui la gente sa poco. Sei pazzesco. Intanto Fusaro parla di dittatura spietata. Buttare Fusaro. Fango su queste Fusaro cose, parla di dittatura spietata. Senti. Tutti siamo all'interno di una dittatura sempre più spietata e che tuttavia si presenta come inesistente per il semplice fatto che tutti siamo all'interno della caverna globale e nessuno è in grado di la immaginare di un'esteriorità rispetto all'antro. Hai capito te la supercazzo? Sì, perché lui fa riferimento alla caverna di Platone. Sì, ma che vuol dire? Nella Repubblica di Platone, ma ho capito, ma che c'entra? Nel capitolo settimo, ma cosa della c'entra? Repubblica di Platone. Ma dove sarebbe? Si parla delle persone che sono... Ma dov'è la verità? Ma non me ne frega un cazzo, dov'è la verità? Che guardano quelle immagini che sono proiettate. È accaduto ad esempio il fatto che in un asilo è stato introdotto in Italia il braccialetto per il distanziamento a ben 150 bambini. Addirittura con entusiasmo è stato detto che vibra a meno di un metro e per i bambini sarà come un gioco. In sostanza educano i nostri bambini fin dalla tenera età a vivere come schiavi. Educano i bambini a vivere come schiavi perché li vogliono distanziare. In sintesi è un coglione. Per me è semplicemente un coglione. Stiamo procedendo sempre più verso un mondo di democratica levigata in libertà, un mondo che si celebra come il regno della democrazia che in realtà quanto più si proclama democratico tanto più ha neutralizzato ogni residua istanza di democrazia. Ma scusa, ma puoi parlare tranquillamente e dire che non c'è democrazia? Dov'è la dittatura? Dov'è Fusaro? Puoi dire tranquillamente che non c'è democrazia? Dov'è che è cancellata la democrazia? Da dove è cancellata la democrazia che tutti dicono il cazzo che vogliono ogni secondo? C'è gente che dice che il Covid non esiste. Ieri abbiamo sentito qui in questa disgraziata trasmissione un signore dire che il Covid non esiste, che i morti non esistono e che tutto un grande certo che l'ho invitato io, assolutamente. Criminale è che l'hai invitato tu, che adesso critichi l'OMS, cioè anziché invitare uno dell'OMS per spiegarti qual è la sua funzione globale determinante come tutte le organizzazioni multilaterali. Giù la Clervo, la Clervo giù, chiudere. Dopo questa esperienza poi ancora di più. Dopo questa esperienza del Covid proprio chiudere giù. È inutile totalmente, se non sai neanche perché è nata, lobby, quando è nata, per le lobby, come mai, ma quale lobby? Ma quali lobby? Ma di cosa intanto parli? Intanto Don Fanzaga dice che la pandemia è opera del demonio. Questa pandemia fa troppi danni alla società anche alla Chiesa. Questa pandemia conviene solo al demonio. Opera sua, è una cosa sua. Ma perché adesso io mettiamo che ci sia veramente questo demonio, no? Cioè questo demonio. Il demonio. Cioè perché dovrebbe avere interesse al Covid il demonio? Avrà i cazzi suoi da fare il demonio, no? Scoperà, si divertirà in un altro modo. Perché dovrebbe diffondere? Il demonio scopa, sì. Cioè perché dovrebbe diffondere? Il demonio vuole distruggere l'umanità, il demonio. Ma perché? Perché? Ma no, si vuole divertire con l'umanità. Io non lo so, io sono di un'altra azienda, quindi non mi interessa. Crederai anche tu nel demonio. Non c'è nessun demonio. Non c'è nessun demonio. Nell'ebraismo non c'è demonio. Non c'è demonio. Non esiste il demonio. Mi dispiace darti questa delusione. Cioè non c'è il demonio. Non esiste un diavolo. Ma non c'è il diavolo, ma mi dispiace, c'è il Satan, ma è un'altra roba, insomma. Ma ci sono le persone, ma non se ne occupiamo tanto, ci occupiamo più di cose concrete che non il demonio. Lascia stare, cioè, il demonio. Stai dicendo che chi si occupa del demonio sono religioni, no, alla fine. Sto dicendo, sono religioni di serie B. Ma non mi direi mai una roba simile. Ho detto semplicemente da noi questa roba qua, il demonio. Ma no, questa roba che da noi c'è il Satan, non c'è, che non è un'altra tu figura. Pensi che chi crede nel demonio è un imbecille, diciamo la verità. Però lo pensi. Uno per me può credere anche in Topolino, Paperino, ecco, appunto, e qui, credere qua. Nel demonio è come credere in Topolino. Ho detto per me uno può anche credere in, dopo che uno crede nel demonio, evviva, va benissimo. Non direi, ecco, non mi spingerei a dire che il Covid è stato demonio. Mandato. Ecco, non mi spingerei, ma semplicemente perché io sono fatto così. Se volete continuare a credere questo, io non ho, ma vi assicuro, nessun problema. Dico evviva, dico uno, evviva. Due, come Cavezzone. Due. Vi piace così? Sì. Continuate così, pure a crederlo. Tre, mi limiterei semplicemente a dire, però coinvolgiamo anche gli scienziati oltre al demonio. Ma per il bene, poi fate quello che volete. Dobbiamo assolutamente bloccarlo. E quale arma? Ci avete la Madonna, affrontate, vincete Satana con il rosario in mano. Cioè, la pandemia è uno strumento quale Satana oggi regna, come ci avete la Madonna, e vuole attentare alle nostre vite e a quella del pianeta sul quale camminiamo. No, ecco, io affronterei la pandemia col plasma, magari. Magari col plasma. Non con il rosario, amico mio. Con il rosario no. Cioè, se tu vai da un malato No, da un malato che è lì, diciamo, non che sta per morire. Beh, quello può aiutare lo primi spirito, 10 giorni, però poi dici, ci no, vuole la flebo, ci vuole un medico. No, voglio curarti, ma non ti curo con il plasma, ma ti curo con il rosario, amico. Beh, mio. Rischiosetto, rischiosetto. È un po' rischioso. Penso che uno possa rischiare anche la galera. Io la cosa principale in questo momento è questa storia del plasma, che voi volete mettere a tacere. Tu e i tuoi amici, io? Burioni e compagnia cantante, vuoi mettere a tacere questa storia? Perché non conviene alle multinazionali. Diciamo la verità, andiamo a scordinare. Tu, amico delle multinazionali, fai il tifo perché questa storia del plasma non funzioni. Questa ma è la realtà, altro. Questo ho capito. Anzi, io. Nelle ultime ore ho capito questo. Ma dai, capito male, non mi sono mai espresso Francesco su questo. Da ho detto che bisogna verificare tutte le terapie, non è che se ne prende una, ma non è che se ne prende i protocolli, c'è un procedimento, non è che si alza una mattina e dice guarda, io ho trovato Francesco il medico del plasma, è uno scienziato bravo e dimostrerà l'efficacia. Dimmi Francesco. Siete? Sì, dimmi Francesco, dimmi. Io volevo dire che il Covid è servito e anzi doveva essere ancora più diffuso. Che cazzo curano sti vecchi del cazzo che tanto muoiono lo stesso subito. Eccolo là, questo è frutto arrivato. Del crucianesimo. È frutto del crucianesimo questo. Calma. È un prodotto in vitro del crucianesimo questo. Allora, venga curato dal Covid. Ma non ho capito perché ti fa schifo un signore tuo nonno di 93 anni potrebbe campare altri due anni. Beh, muore prima, che problema c'è? Tanto la gente deve morire. Ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire la gente deve morire? Quanti anni hai tu, stronzo? Quanti anni hai? 25 anni. Se tu a 25 anni pensi che è giusto che muoia un po' di gente di 90 anni? Dai, o dai 70 anni in su. Guarda, guarda che stronzo. Tu hai dei parenti anziani o no? Aspetta, io spero che tuo nonno ti insegua con la dentiera e col bastone. No, ma a parte il nonno, io penso. Parezio, sì, no, ma io capisco, Francesco. Spero che tuo nonno ti tiri il bastone in testa. Posso dirti una cosa, caro Francesco? Siccome prima o poi tu a 75, 76, 77, 78, 79 anni è talmente scemo che ci arriva. E quando ci arriverai, ti posso assicurare che sarai a sarai aggrappato alla vita come una bestia, certo. Come una bestia a cercare l'ultima gonna, l'ultimo film porno, l'ultima pippetta da farti. Beh, l'ultima. A 70 anni. Sì, anche sì. Cioè, l'ultimo viaggetto da farti per guardare qualche figa intorno. Questo bravo, sarai attaccato alla vita come un pazzo. Se uno può vivere due anni di più, ma perché no? Certo. Poi è evidente, se tu dici che cosa preferisce la società in generale, che muoiano le persone, un po' di persone anziane o che sopravvivano le altre. È chiaro che la società, se deve fare un discorso cinico, è il tuo che fa, ma non esatto, come l'hai detto tu. È il pensiero di tutti, penso. Ma di tutti chi? No, tutti chi? Un corno. Tutti quelli che hanno avuto, no, tutt'altro. Tutti quelli che hanno avuto la fortuna di avere dei nonni come ce li ho avuti io, che hanno vissuto fino a più di 90 anni, dicono che per me è stato un grande dolore quando se ne sono andati. Pure i nonni che hanno vissuto fino oltre 90 anni, per fortuna. E come mai? Che per fortuna. Che tipo di siero gli hanno fatto? Che tipo di cure ad altissimo livello hanno fatto negli ospedali? Sappiamo dove? Negli ospedali magari di Rothschild. Negli ospedali di Rothschild, curati a Padova in ottime strutture, ma per fortuna hanno vissuto a lungo. Fermi tutti. Non è una colpa. Il segnale orario vi è offerto da Zazà, la scamorcina di Brazzale, tutta da mordicchiale. La Zanzara. Pronto? Guarda, ma va tra piangole, guarda, a te grindri dici, tu eri clandestino. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanchè, si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè, piuttosto che andare con lei farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè. Una vergogna. Una vergogna. Una vergogna. Mamma mia, che goduria, ha proprio ragione, Cruciani, sei una puttanella! Oh, grande! grande Povia, grande, ascoltavo il podcast, grande Povia. E d'altra parte Parenzino, avete voluto la libertà voi comunisti? L'avete voluta la libertà? E allora io sono libero di dire froci, gay, posso dire culattoni, posso dire che cazzo mi pare. Avete voluto la libertà e io sono libero di parlare come cazzo mi pare. Giusto o sbagliato che sia, non mi interessa. Non mi interessa, l'importante è essere liberi. Se volete eludere le forze dell'ordine e andare a trovare i vostri amici o amico, basta dire che siete froci. I clandestini insegnano. I cari amici clandestini insegnano, basta dire che siete froci e andate a trovare il vostro amico tranquillamente. Ciao ragazzi. Ho il turco, dove è finito il turco? Caro David, dove è finito? Avrà ripreso la sua attività il turco? Ma ha ripreso ce niente, lo siamo dimenticati. Il nulla. La telefonatina la farei io però. Nulla. La telefonatina la farei, sì, forse me ne impegna. Lo trovi libero, non ti preoccupare, lo sei trovi sicuro? Libero, come prima. Sei sicuro? Come prima? Sì. Sei sicuro che lo troviamo al libero? Sta facendo la spesa, al massimo fa la spesa, guarda. Tu dici vabbè, trovarlo libero adesso è facile, no? È facile perché probabilmente per ha meno clienti. Era facile anche prima. Ah, per me era facile anche prima, poi con quell'aggressività che ha. Ma perché aggressività? Non ho capito, perché aggressività? Ma chi è che può andare aspetta, con quella lì? Eccomi. Ecco. Subito, neanche uno squillo è bastato. Uno. Riproviamo, ti prego, riproviamo. Uno squillo è bastato, uno. Ho capito, ma in questo momento c'è il Covid uno, però. Uno. Ma uno, c'è uno, il Covid uno. Adesso. In genere sono tre, ora uno. Uno. Eccoci. Hai ripreso? Vedi, qui non si fa neanche in tempo, qui non si fa neanche in tempo a fare il numero che già prima è attaccato al telefono. Senza capisci squillo, quanto lavora? Dici. Zero, come sempre, senza squillo. Riprova ancora? Vedrai. Dai. Eccoci. Non hai nulla da fare, proprio. Hai ripreso a fare la puttana o no? Volete. Ma glielo vuoi me una volta ogni tanto glielo Vedi, vuoi non mettere hai niente ti da prego, fare ti prego non Efe, hai nulla da Efe, fare ti mai, prego mai. Prima o poi lo devi mettere nel culo a Parenzo, ti prego fammi mi questa cosa fammi quel giorno, io sto sognando quel giorno. Prima o poi succede, non bravo, te lo porto lì a casa tua, a porta Ludovica, sì, là dove scopriamo insieme. No, posso dirti cos'è, posso ecco, con Cruciani sì, posso dirti cos'è più facile. Cruciani, è più facile che io diventi, scusi, le voglio dire questo, le voglio dire questo, cara signora, è più facile che io diventi un... Lo mettiamo anche autoreggenti a Parenzo. L'immagine è questa. L'immagine è questa. Autoreggenti Parenzo con le autoreggenti. Prima che diciate porcherie, posso dirvi una pecorina sul letto, il turco dietro. Il turco dietro. Posso dirvi. No, quello no. Posso dirvi una cosa. È più facile che io diventi un militante di Hamas. È più facile che io diventi io un militante di Hamas piuttosto che finire nella stamberga di questo questa qua. Di questo qua. Ecco, questo è più facile. Ecco qua le ambulanze che passano, carabinieri, eccetera. Cioè, ragazzi, l'immagine è questa, il turco, casa del turco, Parenzo con le autoreggenti, messo a pecora sul letto, il turco e il turco dietro. Io però la difficoltà credo che sia una, caro turco, cara Efe, è questa. Ecco, sì. A te con Parenzo mi sa che il pisello duro non ti diventa, no? Così è una... prendo un po' di Chalice, ma non ti preoccupare, io ormai sono abituato e quando lo vedo a pecora mi viene duro, non ti preoccupare, ti garantisco. Ma guardi, è un'ipotesi di scuola, signore. Signore, care gentile signore, le posso garantire che non accadrà. Mai, glielo posso proprio garantire. Mai nella vita. Come state, ragazzi? Come state? No, volevo sapere solo una cosa da te, molto veloce. Io penso invece veloce. Che Cruciani molto prima o poi lo farà un giretto con credo. La signora, perché dirti, è troppo attratto da questa sua specialità. Quello cosa di prendere, che io invece oggettivamente di non quel ho. Posto, quindi... no, quello di prendere in quel posto no. Però posso dirti una cosa, Caraefe, una sola cosa. Ti ho chiamato molto velocemente per una cosa. Hai ripreso materialmente a fare la puttana, cioè a ricevere... Ma figurati, sì, ma ho figurati. Fatto il mio primo cliente. Oh, ma questo, un solo cliente lunedì hai fatto? Uno solo? Ho fatto solo un cliente lunedì, sì, ma anche settimana scorsa avevo cominciato a lavorare. Comunque, ma hanno paura questi clienti, vengono da te con misuri la febbre, che cazzo fai? Ma no, guarda, non, ancora oggi mi chiedono se li succhio senza preservativo, se si può baciare. Quando mi chiedono se si può baciare, gli dico di no. Ah, non si può baciare? Se si può succhiare senza preservativo, dico di sì, ma devi lavare davanti ai miei occhi, come dicevo anche prima. Devi, poi, vabbè, devi? Devi lavarlo davanti ai miei occhi, gli dico così quando mi dicono, mi chiedono al telefono se si può succhiare senza preservativo. Comunque, vabbè, se trovo anche quello giusto e bello toccato, lo succhi anche. Sì, però voglio capire una cosa: nessuna paura, nessun timore, nessuna cosa, ma niente allora, di niente. No, perché scusa. Questo è il problema. Viene uno da te, magari è asintomatico. Ma vedi, anche i nostri politici sono pentiti perché hanno fermato questo paese per 54 giorni. Adesso non sanno come cazzo possono. Dunque, a te non te ne frega niente, non te ne frega niente. L'economia. Ma non me ne frega niente, dopo aver, ti ripeto di nuovo, Cru, dopo aver succhiato 20.000 cazzi, il coronavirus, non me ne frega proprio questo però, niente. Davanti a questa cosa qui, Davide, non uno deve anche alzare le braccia, davanti a questa affermazione uno alza le braccia. A me scandalizza la volgarità di questa signore, a me scandalizza, no, in realtà. Tu fino ad oggi hai soltanto mangiato una patata. Hai scopato una patata, quindi ti potrebbe accadere. Io ho l'immagine davanti, di Parenzo, con le calze a rete, con la, come dici, con il reggicalze, esteso sul letto sontuoso della signora Efebal a Milano. Ma io lo bam bam bam autoreggente. Fino ad adesso non ho mai provato un'esperienza del genere. Guardi, che in un film dell'orrore, forse è in un film quasi da pagare cazzo, mentre lo scopo, lo tocco il cazzo, lo meno in un film dell'orrore, quasi da pagare, direi quasi da pagare, Efe, no? Quasi da pagare per questo. No, mi deve pagare. Siamo amici, no, da pagare tu, grazie. Dici quasi ma da pagare amici, tu. Ci siamo mai visti no, una volta solo da Giletti ci siamo visti. Faremo una scopata da amici. So ciao, io... ciao. L'amicizia, Efe. L'amicizia è un'altra ciao, cosa. Efe, però, ciao. No, volevo evocarti questa immagine, non so perché mi era venuta in mente oggi questa immagine, te la volevo far rivivere live. Ecco, questo comunque, cari ascoltatori, questo è il lavoro che fa Cruciani tutto il giorno. Prendetelo nel culo che vi si allarga la mente, cari. Vladimir Bruzzuri. Comunque questo è il lavoro che fa Cruciani tutto il giorno. Tutto il giorno lui pensa a queste situazioni, a questi mostri da chiamare. Questo sapete, cari amici della Confindustria, che lo pagate profumatamente ogni mese perché è assunto a è tempo indeterminato. Incredibile, questo è il lavoro che questo signore che voi pagate fa ogni giorno. Mi chiedete qual è il mio? Io almeno provo studio, leggo, però sto studiando nuovi format, lavoro tutto il giorno. Questo signor Cruciani tutto il giorno, l'unica cosa sulla quale si arrovella è cosa mettere in scena la sera, e questo sono dei risultati. Valutate voi i costi-benefici, cari dirigenti della Confindustria. State pagando questa persona, un signore che tutto il giorno dice: chi chiamo? La signora Efebal. Ecco, questo è il vostro investimento. Io, se fossi un imprenditore, una domandina me la farei: vale la pena pagare così tanto questa persona che ha una qualifica altissima a tempo indeterminato, che prende la 13ª e la 14ª per fargli dire queste cose? Mi farei questa domanda, ma tranquillamente, poi vi potete dare una risposta. Dunque, nei ragazzi, prossimi mesi è passata meno di un'ora dall'inizio di questa emissione radiofonica e siamo arrivati già allo sputtanamento totale tra le due persone. No, cioè tu stai suggerendo al nuovo presidente di Confindustria, al nuovo presidente e alla tutta la anche al nostro amato direttore, a tutto lo staff, di prendere in considerazione, di riflettere. Cioè, qual è il lavoro di Cruciani? Oggettivamente un foglio bianco, il nome, a fianco lo stipendio. Io lo farei domattina farei così, guarda, andai in consiglio d'amministrazione, direi: Cruciani Giuseppe, nato a Roma, eccetera eccetera, laureato in scienze politiche, fa il giornalista professionista tu da quanti anni sei professionista? Ma non lo so, io dal 2005 giornalista professionista, allora... conseguito l'esame anche tu di stato giornalista professionista e quant'altro, lavora qui a Radio 24, qualifica inviato, costa all'anno 350.000 euro, altro foglio bianco, cosa produce? e sotto questa colonna cosa produce lo dovrebbe mettere. Dunque ogni giorno F-Ball, poi Squirting, fa l'elenco delle porcherie che fai ogni giorno e dovrebbe dire: ne vale la pena spendere 350.000 euro ogni anno per sentire questo? Io farei questo: foglio bianco, una matita, un foglio bianco, due colonne, uno l'anagrafica di Cruciani, nome, cognome, proprietà, e dall'altra quello che produce. Franco molto da Bari. Semplice. Franco da molto Bari. Semplice. Si Dimmi, chiama costi benefici. Molto Franco semplice. Franco da Bari. Tanto oggi Franco semplice. Da Bari, risolvete l'anagramma dietro cui si risvela Michele Caruso. Senti, eccomi qua. Ma vai a fare in culo Caruso, vai a fare in culo Caruso. Cosa vuoi, Cruciani, Caruso? Cosa vuoi, Caruso? Cruciani, stasera sarai da Del Debbio. Sì, allora? No? Allora? Questo ormai ormai vuole fare gatto. Già che l'altra volta hai citato indegnamente Parenzo, quel miserrimo idiota di un eunuco impotente, di pure che quella incursionista di Michele Caruso, relata refero, ha detto di essere meno fazioso e più imparziale, perché non ci si può genuflettere a mo' di gellare dinanzi al patron di Mediaset Berlusconi o a Salvini Meloni che fanno l'asse chi lo farebbe? Del Debbio mi pare che sia abbastanza schierato e fazioso, no? Franco, non credo tu che a sia Del Debbio gli puoi solo Franco, Michele Caruso, tu a Del Debbio gli puoi pulire le scarpe. Tu al massimo comunque, gli puoi pulire le scarpe, chiaro? Povia, come si è permesso ieri dalla Balivo di dire: ah, ma io sono un mancato gay se faccio le pulizie. Ma perché così? Exultatio non petita, accusatio manifesta. Significa che gli uomini puliti, ordinati, su questo ha ragione, e gli altri invece no, quindi si è buttato la zappa sui suoi. Ma questo che vuole fare l'opinionista? Si è messo a fare l'opinionista, Michele Caruso? Ma mi pare che Michele Caruso è esaurito. Vorrei avere il becco, perché con Luca che era gay ha fatto solo discutere in maniera strumentale con quella vis polemica che non serve a nulla, marcellando una omofobia latente. Vorrei sapere per quale motivo Michele Caruso che ha rotto il cazzo. Quando fa l'opinionista ha rotto il cazzo. Fermo. La zanzara. Oh no, la Mukine è finita. Ci penso io, va. Ecco Mukine. Già lo usavo, ma adesso di più. È perché tutto questo allarmismo, che stanno dando. E la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. E la gente. Già lo usavo, ma adesso di più. La mascherina no. La mascherina no. Già lo usavo, ma adesso di più. Già lo usavo. Io sono mangiato le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Parenzo. E voi sapete che io ho depositato nei giorni scorsi una denuncia. Buongiorno a tutti, ci rivediamo, sono qui alla metro, come potete vedere, che volevo andare a Palazzo Chigi, chiuso, lo vedete, misura di prevenzione, cancello chiuso. Si sono inventati che il codice IBAN non deve essere di ditta individuale ma di personale, Sono cornuti, sono ladri, sono fittusi, mi devono far arrivare questa pressione, non si sa dove questo sangue, dove si deve, mi devono fare venire un ictus a me, se io non mi vado a suicidare mi viene un infarto, perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. Pina Pitone. Chi è Pina Pitone? La commercialista della Clemente. Ma esiste, deve provare a chiamarla, perché sarebbe molto interessante chiamare la commercialista di questa signora qui. Questo è interessante per capire. Perché è uno spaccato interessante. Perché se la commercialista Pina Pitone, che è stata sputtanata da questa, di avere un cliente così, chiunque, il mio commercialista, no, è persona serissima, se vuoi dico anche nome e cognome. No, ma no, tu immagini di questa povera, no, che sennò poi sembrerebbe una marchetta e quindi non voglio dare il nome del commercialista, ma voglio dire Pina Pitone citata da questa qui che dice Fetusi eccetera, si nasconde. Proviamo a chiamarla per vedere se esiste davvero la Pina Pitone, commercialista Pina Pitone, perché avere un cliente come questa qua è... No, magari è una bravissima persona, anzi sicuramente è una distrugge bravissima commercialista, ma... gli va la mia solidarietà perché dell'INPS, io l'INPS non la pagherò mai più, mai più, non dovete pagare, dire è così. Truffa, sono no, truffatori, con... sono delinquenti, sono ladri, ladri, ladri. Ecco, io disputo, non... tu, disputo, ma tu, disputo, tu, no, non disputo, si fa. Fate schifo, ladri, ladri, ladri, vi querelo, vi querelo, vi querelo con gli altri avvocati che sono già partiti con le querele, questa è una truffa. Io non ho capito, ma alla fine che cosa vuole? Vuole riaprire alla fine? Cosa vuole sta Clemente alla fine dei giochi? Perché cosa la vuole? Mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. Ma non dirlo, io non penso che la sua commercialista, la dottoressa Pitone, gli dica Fitusi di sputare all'INPS. Non penso, cioè, non credo che siano suggerimenti. Per avere 600 euro deve mettere un altro PIN. Avrà sbagliato lei a mettere il PIN iniziale, che cazzo vuoi? Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. No, ma basta dire il nome. Ragazzi, state creando un danno alla dottoressa Pitone. Non... Questa è una truffa! Mi sta venendo un infarto! Questa è una truffa! Questa è una truffa! Svegliatevi, italiani! Dobbiamo manifestare! Dobbiamo farci prendere le multe! Manifestiamo perché siamo un regime dittatoriale! Ma questi chi? Sono pazzi! Questi sono pazzi! Questi sono incapaci! Questi sono incapaci! Manco io sono incapace! Ma se uno ha sbagliato a fare la richiesta di 600 euro sarà colpa sua e non dell'INPS. Che cazzo, infatti. Stavolta è colpa tua, non della dottoressa Pitone, dai. Ma lei è un'elettrice di Salvini, se non ricordo male, questa signora, no, l'ha detto una volta, sbaglio? No, mi sembrava di sì, però io potevo essere stipendiata. Allora, da chi? Pitose, lacce, curnote, farabutti, disgraziate, disgraziate che servite il dio denaro, falsi, falsi, falsi, maledetti, siete maledetti, e vi ho detto tutto in generale. Delinquenti siete, delinquenti siete, siete lupi travestiti d'agnelli, ma io non ci sto, io non ci sto, ma come con chi io, come tanti l'ha? Altri italiani, vergognatevi, vergognatevi in generale, vergognatevi in generale va sempre bene, vergognatevi in generale va sempre bene. C'è un dio giudice anche per voi, c'è un dio giudice anche per voi, perché quella terrena non c'è giustizia, perché se ancora siete lì al governo, se ancora siete lì al governo, mi sta venendo un infarto, vuol dire che no, non c'è giustizia. No, l'infarto no, l'infarto no, ti prego, l'infarto no, ti prego, no, perché no, la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. L'infarto no, ti prego, l'infarto no, ti prego, l'infarto no, ti prego. Solidarietà alla dottoressa Pitone che è costretta ad avere questo cliente qui. Chissà che testa gli fa la commercialista. Aspetta. Qui è l'INPS. Sì, studio Pitone? Qui è lo studio Pitone. Pronto? È lo studio della dottoressa Pitone? No, fammi continuare con l'INPS, cazzo. Ma quale è l'INPS? È lo studio Pitone, no, che ha querela per diffamazione. Vabbè, dopo la Pitone, prima fai l'INPS, poi dopo lo studio della dottoressa Pitone. Dai, sì, riprova, studio riprova. Pitone, buonasera, studio Pitone. Anzi, chiamiamo la dottoressa Pitone con la voce della, di questa qua. Calma, calma, andiamo con l'INPS, dai, andiamo con l'INPS. Andiamo per gradi, andiamo per gradi. Allora, il contrario, numero Pitone e chiamiamo la dottoressa Pitone con Roberto la voce di questa qua. Roberto da fermo, Roberto da fermo. Ciao, beh, dimmi, ciao, dimmi. Ma tu veramente ci credi che Bill Gates o quell'altri che hai nominato prima... No, non ho mai detto non ho mai detto una cosa di questo. Non ho mai detto una cosa. Milioni, miliardi al mese E tu state già che ma io non l'ho mai detto, lo dicono altri. Ho riportato cose che dicono altri, imbecille. Non ho mai detto una cosa del genere. Mai detto una cosa del genere. Prima però a Davide, che è due mesi che ti sta massacrando, perché è due mesi che soffri. Io è soffro. Due mesi che stai soffro. Soffrendo che ti manca l'aria, ma io soffro per altre cose, non per queste minchiate qua. Ma non sto soffrendo per altre cose, mi manca l'aria. A me manca l'aria, sì, perché voglio uscire da casa. Mi manca l'aria perché prima del Covid dicevi una cosa che adesso non vale più. E quale sarebbe? C'è un atteggiamento che adesso non ti tira. Ma cosa? Su che? Sulle libertà, cioè sul discorso del Covid, adesso che siamo tutti rinchiusi. A parte che non stiamo rinchiusi perché ormai siamo tutti fuori, ma comunque sai. Mezzo. Ma Roberto, non ho capito che cazzo vuoi, non ho capito. Tu hai chiamato per dire cosa? No, prima mi hai dato fastidio. Quando tu parli. Ma io ho detto a Davide vaccini. Che lui non. Ha detto, adesso facciamo i vaccini, Bill Gates. Ma io, Bill Gates, pensi? Ma chi te bravo, l'ha detto? Ma che bravo, dici? Bravo, ma non, bravo, mai, bravo. Ma non l'ho mai pensato in vita mia. Ma milioni con click che gliene frega dei vaccini. Roberto, non l'ho mai pensato in vita mia. La, okay, la cosa del plasma dicevi che la cura del plasma è l'unica. Ho detto che la cura del plasma cura, può dare fastidio a qualcuno. E può. Può no, dare ma fastidio. Ma non è che dà fastidio, è una teoria complottista. Gratuito, dillo sulla radio che sarà gratuito. Ma che dici? Ma quale gratuito? Non ci faranno dire. Ma molti dicono che il vaccino innanzitutto non serve. E questi bisogna sentirli. Oppure bisogna dare retta solamente a quelli che dicono che il vaccino serve. Ci sono delle persone che dicono. Ci sono delle persone che dicono che il vaccino non può servire, non serve per il coronavirus. Lo dice Tarro, lo dicono tanti altri. Ma lo dicono tanti altri che il vaccino non serve. Coscardi, Trasgardi, Tarro, tutti quelli che dominavano lui, è andati tutti in malora. Scusami, Roberto, stai tranquillo un attimo. Qui non è due o tre mesi fa. Io ti sto dicendo semplicemente una cosa: il vaccino, sei così sicuro che possa servire? Io non sono sicuro, per esempio, che il vaccino possa servire, come per altre cose. Ma non è che sono contro i vaccini, io sono a favore. Se il vaccino serve. Me lo io, e allora che cazzo vuoi da me? Ciao. Io ti voglio dire che non ci fanno i soldi. Ciao. Comunque, ragazzi, in realtà il protagonista numero uno, il vero eroe di questi giorni, perché si sono avuti dei dettagli in più, è il mitologico professore, come si chiama? Ferguson, quello che si è abbassato i pantaloni, come titola giustamente un giornale inglese, che ha rotto il lockdown, cioè ha violato il lockdown che lui ha creato in Inghilterra per abbassarsi i pantaloni e scoparsi la donna sposata amica sua. Quello è il numero uno, quello ha fatto benissimo, posso dirti? È vero, aveva un ruolo, ma ha fatto benissimo. Ma come bene? Solo che c'è un problema. Pessimo. Solo che esempio c'è un problema. Oltre all'esempio ha commesso anche un'irregolarità, oltre ad aver dato un esempio pessimo. Perché? Era quello che dava le regole. Quello sì. Era quello che dava le regole. Però, amico mio. Ed è il primo che le ha infrante. Ho capito, ma di fronte al fatto che uno si vuole chiamare un moralismo. Ma di fronte al fatto che uno si vuole chiamare l'amante, ma non c'è coronavirus che tenga, si assumono le loro responsabilità. Il problemino è che pare che questa signora qui, che è una sposata, ma ha una relazione aperta con suo marito. Relazione aperta, sai cosa significa relazione aperta? Sì, caro, sono tutti d'accordo in questa dinamica. Sì, questo lo capisco. Relazione io, aperta. Sono tutti d'accordo in questa dinamica. Evviva! Pare che viva, questa Antonia abbia attaccato poi il coronavirus. Siccome questo ha avuto il coronavirus, la Ferguson, poi l'ha trasmessa evidentemente a questa Antonia e l'ha passato il coronavirus al marito legittimo. E lì c'è stato un po' di casino. Comunque, questo qua, ragazzi, bisognerebbe dargli una medaglia a questo Ferguson. Se ne è sbattuti i coglioni in nome di che cosa? In nome del fatto che voleva scopare con la sua amante, con la donna con cui stava. Qual è il problema? Qual è il punto? Qual è il danno? Che danno ha provocato? Va bene, d'accordo, quella inglese è la questione pubblica. Ed però era quello che scriveva le regole. Che danno ha provocato? Ha provocato un danno che ha infettato altre persone. Ecco il danno che ha provocato. Infettato adesso. Ha passato il coronavirus, anche questa cosa. Infettato. Cioè, bisogna smettere. Una volta capita questa cosa, passati dei mesi è capita questa cosa. Anche questa cosa di questi infettati. Sembra. Allora, li stai bollando, ma magari mi arrivasse, ti giuro. Certo, magari. Infettati, perché così poi diventi immune, certo. Cioè, però, insomma, non stai bollando queste. No, non è simpatico, infatti non voglio. Ma però stai bollando queste persone qui. Le stai bollando come lebbrosi, li stai mettendo infettati, lebbrosi che devono essere curati, si devono curare, chiaro. Senti, si devono curare, che devono fare? Devono girare, devono morire, no poverini, devono curarsi, che roba è pazzesco. Claudio da Parma, vai Claudio. Ehi, ciao. Dimmi. Avete visto come si è chiuso il collegamento con De Donno l'altra sera? Dove? A Porta a Porta? Dove? Sì, con la pubblicità, non l'hanno manco salutato. hanno cambiato scenario. Beh, adesso il complotto di Porta a Porta contro The Don, che è quello del plasma, io non credo che ci sia. Dai, cioè, no, secondo me non si aspettavano che fosse uno cazzuto, perché aveva l'aspetto mite, poi è partito e ha messo a tacere tutti, questo qua. Sì, sì, ho capito, ma è il numero uno The Don, lo sento, l'ho sentito, l'abbiamo mandato in onda dell'ispezione. Nessuno sta boicottando The Don, siccome c'è un equivoco generale, nessuno sta boicottando il professor, il dottor The Don, nessuno. Ma io non ho detto che non boicotto, ho cioè detto Salvini che ha alimentato, perché se vogliamo ricostruire, ma nessuno, sì, ma non penso che Vespa faccia censure di questo, è una strozzata. Il casino nasce semplicemente dal fatto che un signore che si chiama Salvini, che è uno dei leader dell'opposizione, cavalca l'ipotesi, anzi cavalca la suggestione che il signor De Donno sia boicottato. Questo è il tema. Per colpa di Salvini, che e che ne sai? E che ne sai che non sia così? E che ne sai che non sia tu così? Pensi che, no, che come sia dice Salvini, pensi che sia boicottato? Qualcuno magari ha tu interesse che sia boicottato? Per invidia. No, non lo so, questo quindi qua. Tu sposi la tesi di Salvini? No, appunto. Salvini non mi interessa. Io quello non che credo. Dice Salvini non questa mi interessa. È la sua tesi. Salvini è molto grave, perché dalla sua posizione dice che c'è un boicottaggio nei confronti di questo medico. La cosa grave è che, certo, fa credere è strano, all'opinione pubblica italiana. E tu sei tra quelli che crede, no, che ci sia un boicottaggio del complotto delle farmaceutiche contro questo qua. Fare qualche lo stai domanda? Alimentando mi sulla posso base fare del qualche nulla. Domanda? Ho chiamato, ti abbiamo chiamato. Fare, se conoscessi la procedura che c'è per validare queste ipotesi scientifiche, non diresti questa stronzata. No, no, amico mio. Vuoi che ti dica chi chiamare per l'altro sentire giorno per, abbiamo chiamato per fare chiarezza? Il signor Red Ronny, abbiamo chiamato il signor Red Ronny, che non ha nessuna valenza scientifica. Ma chi vuol dire? Vuoi, ma chi ce l'ha la violenza scientifica? Chiama il professor Pani, che ti spiega come si fa a validare un protocollo. Ciao, come ciao, si fa a validare un protocollo medico? Ciao. Tutti i professori qua, i professori che ci hanno insegnato come vivere da tre mesi Red a questa Ronny parte. Non sa come si da valida tre mesi un protocollo. A questa parte ne abbiamo sentiti di tutti i colori, ragazzi. Quindi tutto tu è sei contrario di tutto. Ai medici? Sei contrario? Chi, no, curati con Red Ronny allora. Medici, se cosa stai sostenendo questo, Mauro, curati con Red Ronny. Mauro, curati, se hai il COVID, ti curi con Red Ronny. Roba incredibile, guarda, hanno sbagliato tutto e ce ne pone ancora cioè i coglioni. Tu sei grande, sei Mauro, bravo nell'alimentare queste false verità, nel tirarle su. Io non ho detto e poi niente. Però non vai alle come no, tu alimenti Mauro il sospetto Treviso. Che questo professore sia stato messo nell'angolo. Io ne parlo, Mauro ma Provincia dovresti Treviso. Parlare dicendo che non è l'ha così detto lui, però. A parte che l'ha detto lui, l'hanno chiamato da tutto il mondo tranne che dall'Italia. Bisognerebbe dire, guarda, che il professor, guarda che per validare un test come quello vuoi insegnare ci vogliono più casi clinici. Vuole insegnare a De Donno come si campa al mondo, come si sta al mondo. Mauro, ma che c'è da De Donno? È come il caso di Bella. Mauro. Uguale, ci devono essere delle valenze. Anzi, lui sarà più fortunato perché sarà più bravo di Bella, mi auguro. Fermatelo un attimo, Mauro, dimmi. Eccomi. Ciao Giuseppe, ciao David. Io chiamo per segnalare che la mia compagna, con la quale mi sono ricongiunto il 4 maggio, l'altra sera, lei ha una conoscenza molto limitata del programma, dei personaggi, eccetera. Presa dalla curiosità, ti ha fatto il quadro astrale. No, per carità, il quadro astrale no, amico mio. Il quadro astrale mi fa venire. Ha fatto delle corrispondenze. Quadro astrale, su che base l'ha fatto sto quadro astrale? Dove sta sta tua compagna? Passamelo un attimo al telefono. Roba, come si chiama questa qua? Come si chiama? Vera. Come? Vera. Vera, bel nome, Vera, sì, un nome antico, non bel si dà più, Vera, sì, non è male. Vera, passami. Ciao. Vera. Ciao. Vera? Grazie, ciao. Ciao, buonasera ciao, a tutti. Ciao, dimmi ciao. Vera, che cosa, perché hai fatto il mio quadro astrale, dimmi perché. Perché vi stavo guardando, perché ho visto anche la puntata, la video, Allora? E notavo la trascuratezza dei capelli. E vabbè, allora questo, detto, amica mia, però non è che ci vuole, non è che bisogna fare il quadro astrale per no, notare la trascuratezza allora dei capelli. Ti posso dire una cosa, te la posso dire. Allora, però ti faccio subito una domanda: da quando vi siete congiunti il 4 maggio? Avete già scopato, immagino, no? Tu e Mauro. Il primo giorno, subito, di secco. Il primo giorno, subito. Dopo quanto che vi siete visti? Dopo 2 mesi. No, ma dopo quanto? Dopo quanto tempo, diciamo? Vi siete visti? Mesi? No, vi siete visti? No, la sera. Ci avete fatto passare tutto un giorno? No, io sono arrivata la sera, abbiamo cenato, abbiamo guardato la televisione e dopo aver guardato la televisione avete trombato a letto. Molto semplice. Cioè avete fatto passare 2-3 ore prima, cioè non vi è presa quella roba lì, di avvelenamento. No, per carità, ma nessuno, non c'è niente di strano. Allora, a parte i capelli, che cosa è uscito fuori, scusami? No, io ho notato questa trascuratezza dei capelli e volevo indagare sul tuo segno astrale. Ho detto, ma se è una persona così un po' trascurata, vediamo di che segno è. Segno Vergine, perché sei nato il 15 settembre. Sì. E hai tutti i tuoi pianeti sul segno della Vergine e così, secondo un'interpretazione astrologica, sì, risulti più un pesci. E allora? Quindi, non sei ordinato, non sei pulito. Vabbè, dunque non sei tutto, preciso, tutto già lo sapevo prima. Tutto per dire questo. Tutto allora, per dire. C'è avversione per l'acqua, eccetera. Che a me per cortesia il quadro astrale. Cosa? E poi ho sentito, aspetti, ho sentito anche un'altra cosa, che è amante, è un retifista, quindi amante dei piedi, ha questo, vabbè, questo non è che non ci vuole il quadro astrale per questa roba, l'ho detto io. Ma l'ho detto io. Ma questo qua è come il divino Telma, una cosa incredibile. Ho detto tutto io, queste cose qua, l'avversione per l'acqua, i capelli, il feticismo dei piedi. Tu hai fatto il quadro astrale, ma l'ho detto io da anni, una roba incredibile. Ma sei vergine. Ciao. Ciao. È con noi Diego Fusaro. Buonasera. Caro saluto a voi da Diego Fusaro. Spero stiate bene, cari amici zanzarosi. Non c'è male, caro professore, caro maestro. Prima di sentirla, sì. Sapevo che l'avrebbe detto. Stava bene era adesso. Prevedibile. Ecco. Comunque, un prevedibile. Caro saluto in ogni caso. Un caro saluto anche a lei, non c'è dubbio. Allora, un caro Fusaro, saluto anche a lei, turbo filosofo minchione. Mi sembra di capire. Mi sembra adesso. Adesso, subito. Non si adombri in partenza. Esatto. No, non mi adombro, sono serenissimo. Voglio capire una cosa. Come sta intanto a casa? No, sinceramente, prima di battagliare. No, ma anche la signora sta bene? Tutto a posto, la bimba? Spero anche a voi, tutto sommato andiamo avanti, chiuso in casa anch'io, però tutto sommato avete finito con queste cazzate o no? Cioè, no, volevo intanto prima di andare in battaglia, volevo prima di prendere il fioretto, come gli antichi greci tra eroi c'è il rispetto tra avversari, prima di mandarlo a fare in culo come accadrà, volevo semplicemente intanto prima di accarezzarlo prima di insultare sto coglione per quello che dice, volevo semplicemente volevo sincerarmi del fatto che il filosofo fosse in forma, tutta la famiglia allora, bene, cucina a casa, il suo piatto preferito qual è, professore? Al desco cosa mangia? Mi dica. Come piatto, ma raramente si consuma, quelli che in piemontese sono i tagliarin con il tartufo bianco, col tartufo, il filosofo, questo è il filosofo, tagliarin col tartufo. Grandi occasioni. Scusi, filosofo, bianco, io posso dire una cosa? Centro di Priocca ve lo consiglio, ristorante del filosofo, e poi rompi coglioni a Saviano con le sue titillevole. Io però non consumo titillevoli aragoste sull'astico. Mangia semplicemente tartufo e tagliolini. Allora, voglio chiedere subito a Fusaro una cosa. Questa storia del plasma, molti sono sospettosi, dicono non vogliono dare credito al plasma perché preferiscono il che vaccino. Ne sa lui di plasma? Allora, la domanda però è questa: lei arrivasse il vaccino per il coronavirus, lo farebbe oppure no? La domanda è diretta, caro filosofo, non molto complessa. Allora, primo punto sulla cosa del plasma: ovvio che io non sono un immunologo. Quello è chiaro. Mettiamo che funzioni come dice quel signore là. Però ecco, da storico delle idee posso dirvi che nella scienza si procede per confutazioni e ipotesi. Dunque, quando però un'ipotesi viene messa fuori legge ancora prima che possa esprimersi, c'è da preoccuparsi, evidentemente. Cioè, c'è qualche cosa che vuole impedire? Nessuno l'ha messa fuori legge, piccolo dettaglio. Spero di no, diciamo che il fatto l'ha messa fuori legge, prima stronzata che lei ha detto. Che mi preoccupo quando certe opinioni nessuno lo ha messo fuori legge. Nel caso specifico nessuno ha messo fuori legge il professore e le sue titillevoli aragoste lei le può prendere se le può mettere quando dice delle follie. La pagano per ridicolizzarsi, però si contenga e sia serio. Fusaro, scusi un attimo, la domanda è questa: lei, se si dovesse affidare a qualcuno, sceglierebbe Burioni, che è un po' scettico, ha polemizzato con De Donno, che è quello che è a Mantova, lavora su questa cosa, o a De Donno? A chi affiderebbe il suo corpo? Mi documenterei bene, poi sceglierei quale dei due è più diciamo titolato. Questo è chiaro. Non ho elementi. Ma ci vede dietro? Ma ci vede dietro qualche cosa a favore delle multinazionali nel bloccare questa roba del sangue? Secondo te c'è la longa manus? Ma chi è che la blocca? Allora, lo devo dire apertamente. Lo dica apertamente. Io non sono un esperto, io mi occupo di filosofia e non di medicina. Allora... ho letto con attenzione un post che ha pubblicato De Donno, dove diceva che era interessante questa cura che stava proponendo in ragione del fatto che era del popolo e per il popolo. Mi ha colpito questa espressione usata da un medico. Ha detto così. Sembrava una sorta la cura di medicina del popolo per il popolo. Una populista contro una medicina elitista, forse, non lo so se seguiamo le che sue il vaccino, parole, diciamo, no? Che è il vaccino. Posso informare il professore di Fusaro, che l'ospedale di Mantova ha detto non è una cura miracolosa, ci sono delle vittime anche da noi? Però, ma tu non l'hai detto però. Massimo, lascia perdere, Fusaro sta dicendo un'altra cosa. L'ospedale di Mantova dice che le cure... che sta entrando nel dettaglio, non ce ne frega un cazzo. Turbo Parenzo Acuccia, si acquieti un attimo. Io ripeto, non sono un medico. La frase, la cura del popolo, la cura del popolo per il popolo. No, ti emoziona anche. Beh, se c'è emozionare è esagerato, diciamo. Io non mi emoziono facilmente, procedo con il logos. Il logos è stato colpito da questa espressione, una cura per il popolo e del popolo. Sembrava lui, De Donno, far riferimento invece a qualcuno che non è per il popolo e non è del popolo, evidente, no? Tu hai parlato in questi giorni di dittatura spietata, ma dov'è sta dittatura spietata? Scusami. Cioè... Allora, io ho detto che si sta instaurando gradualmente, come anche ha mostrato il filosofo Giorgio Agamben, una sorta di stato terapeutico globalista, come anche ha detto Paolo Borgognone. Ma che vuol dire? C'è una sorta di passaggio da una società deregolamentata totale a una società che è quella liberista, sì, ma che prevede anche un controllo autoritario sulle persone. Per inciso, ben 9 articoli della Costituzione sono sospesi in nome dell'emergenza, chissà per quanto tempo, tra i quali la libertà di movimento, la libertà di iniziativa, la libertà di culto e via discorrendo. Ora, il paradigma è uno semplicissimo: in nome della sicurezza rimuovono le libertà. Capito, quello Valenzio, che già Foucault nelle sue lezioni politica Foucault lo definiva proprio il paradigma, l'arte di governo liberista. Un'ultima cosa, caro Fusaro, io non ho capito un cazzo di questo ragionamento, ma va benissimo. Cioè, anch'io sono ignorante. Lo dunque... trovate anche nel mio libro Globalizzazione. Allora, scusi, Fusaro, però c'è stato anche un tentativo di repressione della sessualità in questo periodo. Lei, che è così interessato anche a questo argomento, ne ha scritto anche un saggio. Cioè, hanno compresso anche la sessualità popolare. È un argomento che non lo riguarda, perché non se ne occupa mai lui. Quindi... Cioè, questa operazione ha creato anche un problema dal punto di vista della sessualità popolare di tutti noi. Cioè, hanno creato un popolo ormai disperso da questo punto di vista, un popolo ormai senza alcuna, che difficilmente farà figli. Cioè, hanno creato una società distrutta anche dal punto di vista erotico, no? Beh, diciamo che come si è passati dalla società aperta all'essere chiusi tutti in casa, si è passati dal nuovo ordine erotico, come lo definivo nel mio libro, poc'anzi evocato, a una sorta di nuova dittatura in cui si è rinchiusi in casa e in cui, non so se avete notato, che addirittura si diceva che i baci non debbono essere elargiti perché sono pericolosi. C'è una sorta di vademecum, di prontuario delle mosse e delle consentite e di quelle non consentite, che ricorda molto Orwell, 1984, dove capito, Parenzo, bisogna essere il ministero dell'amore. Orwell, bisogna essere preoccupati, però, dice il filosofo. Orwell. Bisogna essere Orwell. Preoccupati. No, dice. Preoccupati, bisogna essere sempre vigili, no? Dato che vigili, abbiamo celebrato da poco il 25 aprile, la lezione dei partigiani è quella per cui bisogna essere vigili e pronti all'occorrenza quando si instaurano forme di dittatura, a non stare semplicemente a subire tutto, anche solo a fare delle critiche. E invece molto Parenzo precise. Parenzo di solito subisce. Il turbo Parenzo è nato per subire ed è diventato il lacchè di Brusaferro, perché devi capire che in questi giorni è diventato il lacchè di Brusaferro, il manutengolo di Brusaferro. Qualsiasi cosa venga dai medici e dall'Istituto Superiore di Sanità, lui l'accetta supinamente. La saluto. Che l'accetto, filosofo, critico, la saluto. Caro saluto, amici da Diego Fusaro. Ecco. Ciao. La Zanzara. Perché questa è una truffa a una cittadina italiana, come tanti altri 30.000 che siamo, che dobbiamo fare questo conto corrente privato, col codice IBAN personale mi arrivano sui 600 euro. Ve li restituisco indietro e ve li vengo a strappare in faccia per farvi vedere cos'è la dignità. Vergognosi, schifosi e maledetti. E fitusi. Ho trovato 4 parole che riassumono la mia vita. La gente deve pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare con il sangue. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare con il sangue. La gente deve pagare. La gente deve pagare. Soffrire. La gente deve pagare. La gente deve pagare con il sangue. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare con il sangue. Pena di morte no, però chiudere e lasciare morire. Pena di morte no, però soffrire. The sweeter the touch, yeah. The colder her hand. Ovvio, ovvio, ovvio, ovvio, ovvio. È così. Just broke my heart again. Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. Partendo anche un poco dalla depilazione, andremo a finire anche a quello che è lo schiarimento anale, quindi lo sbiancamento della zona anogenitale, chi, come, dove, quando, perché, quanto la depilazione influisce. Ho notato che vi interessa tantissimo. Parleremo del culame in generale, quindi un po' di pecorame, un po' di posizioni, come inarcare la schiena, come essere più sexy. Quindi le donne potranno prendere dei consigli, gli uomini potranno semplicemente soddisfare il piacere degli occhi, quindi guardandomi il culo. Ecco, andremo a sviscerare tutto questo e anche altro, tra cui la lavandina, quella là anale, lo sciacquaggino, insomma quello là profondo, prima di accingersi al sesso anale. Ragazzi, ci aspettano 50 minuti, 45 minuti di fuoco, caro Parenzo, soprattutto per te qui. Ma è un po' presto, mi pare, sarà da... in genere alle 8:30, sì, mi vabbè, pare un po' tutto troppo anticipato. Ci sarà da soffrire qui, ci sarà da soffrire per te. Ci sarà anche la signora Saurino che ci farà un'altra delle sue lezioni, andiamo avanti, ma andiamo avanti. Carità, ma che voglia di cazzo, mamma mia. Francesco dalla provincia di Ravenna, intanto con calma, Francesco dalla provincia di Ravenna, vai. Dimmi. Volevo solo fare una domanda al conduttore. Sono qui. Come si chiama? Crociani? Sì, vabbè, giochetto, l'abbiamo già sentito questo giochetto, non ti preoccupare Francesco. No, la domanda non è originale, inventatene una nuova. Devo fare una domanda secca. Sì, ma volevo sapere se il conduttore è fiero di essere paragonato a dei, non so, ci possono chiamare colleghi come Feltri, Giordano, Porro. Sì, a questo livello di... Porro già diverso. Nessun problema, amico mio, nessun problema. Nessun problema. No, non sono né fiero né mi vergogno, non sono nulla. Cioè, no, questi paragoni li fate voi. Li fate voi che mettete le persone dentro una classifica, dentro un francobollo, dentro a una casella e li classificate di destra, di sinistra, fascisti, non fascisti, eccetera. Siete voi malati di mente, rincoglioniti. Spesso, non lei magari, teste di cazzo, che mettete le persone dentro una casella in questo modo, capito? Questo è chiaro? Io giudico quello che dicono le singole persone. Possono dire delle puttanate, possono dire delle cose corrette. Punto e basta, per cui non c'è assimilazione vicino qua, vicino là. Questi sono discorsi che non mi sono mai interessati, li fate voi, li fate. Però siccome li fate voi e ne parlate, mi interessano anche questi. Avanti. Francesco, dimmi, continua. Sono già soddisfatto. No, ma non sono fiero. Ma uno l'ho detto che non sono fiero. Non sono fiero, e lui, dopo tutto questo disco, dice: lei è fiero. Ma guarda, che è incredibile. Non riesco a chiamare giornalisti. Ma se tu non riesci a chiamare giornalisti, Porro, Felte, a me che cazzo me ne frega? Porro è diverso. Cioè, potresti, ma perché non li chiami giornalisti? Invece chiami giornalista qualcun altro? Ci sarà un motivo, no? Come li consideri? Degli agitprop? Come li consideri? Li consideri dei mestatori, dei criminali? Dei fascisti, dei nazisti, degli approfittatori, come li consideri? Non li considero dei giornalisti. E come li consideri? Non li considero giornalisti. No, non li, e chi consideri i giornalisti tu invece, al contrario? Delle persone... No, un giornalista normalmente dovrebbe cercare di esporre la verità. Di esporre la verità. Ecco l'altra cazzata. Oppure... esporre la verità. Ecco l'altra. Ma che cos'è la verità? Ci sono delle persone che hanno delle opinioni. La verità ha molte facce. Può essere preso da una parte, dall'altra. Cosa vuol dire esporre la verità? No, lui dice c'è un giornalismo dei fatti e un giornalismo d'opinione. Ma queste sono le puttanate che avete voi nella testa. Le puttanate. No, i fatti sono una cosa. Le opinioni sono tutte valide più o meno. Come no? Giornalismo d'opinione è validissimo, ma non ha nulla a che vedere con i fatti. I però. Fatti, sì, i fatti, i fatti. No, posso dire solo una cosa? Cioè, dimmi. Secondo me, no, il mio modestissimo parere, non da giornalista. Ma no, ma querele, ma non mi frega a me delle querele. No, il mio modesto parere ho detto. Tuo modesto parere cosa? Il mio modestissimo parere. Dimmi. Questi personaggi, Porro, ma anche Vespa, anche... Sì, Vespa, pure Vespa, mettiamo. Petri, non Fede. Sono giornalisti. Cosa sono invece? Ma non lo so, non saprei come definire. Ma se non lo sai, allora, se non lo sai, non riesco a capirlo, non lo sai, dice, non sono giornalisti, sei fiero di essere paragonato a questi? Non lo so, sono fiero di che cosa? No, non sono fiero di nulla, di essere paragonato a nessuno, non mi interessa questa classifica, questa classificazione, non mi interessa, non mi è mai interessata, non me ne è mai fregato un cazzo, sono d'accordo con persone magari che tu, per te, assumi insospettabili da questo punto di vista, sono d'accordo con persone che magari nessuno direbbe, eppure sono d'accordo più con questi che magari con Fette o con altre persone, ma qual è il punto? Qual è posso fare una domanda? Secondo. Qual è il punto? Mi viene da piangere, dimmi. No, mi dà anche me da piangere. La domanda è secondo te il giornalista cosa deve fare? Non lo so cosa deve fare, tante cose può fare, tante, ci sono mille modi, ci sono mille, generico, ci sono mille declinazioni, c'è chi fa il cabaret, c'è chi fa lo specialista, c'è chi si è specializzato nel buco del culo, c'è chi si è specializzato nel ricavare i dati, ci sono tante cose, tantissime cose, tantissime che tu nemmeno puoi immaginare. Pietro da Bergamo, Pietro da Bergamo, voglio piangere, fatemi piangere, fatemi piangere, dimmi Pietro. Dimmi. Ciao Crux, tanto vengo da prendere al Quotidiano Libero, giusto appunto, che ci sono dei vibratori che si manovrano a distanza. Ecco, di questo dei si vibratori deve occupare che quel si giornale. Manovrano a distanza. Questo sapevamo, è il tema vero di questo. Lo sapevamo naturalmente. Un escort ci spiega come soddisfa i clienti restando a casa, cioè praticamente. Però questo è gli argomenti giusti di cui si deve occupare quel giornale. No, ma perché? Scusa, non ho capito. Esatto. No, perché il libro perché si può occupare solamente di vibratori che si manovrano a distanza, non. Beh sì, sono argomenti a loro più affini, sì, sicuramente sì. Vai Pietro, sì. Dimmi. Ciao Crux, io volevo farti una domanda. Sì, dimmi. Dopo gli interventi di soprattutto Sgarbi, ma lo usi il colluttorio o meno? Adesso è arrivato l'altro, è arrivato l'altro. No, sì, perché a posto di leccare il buco del culo, mi sa che l'aito sarà un po' di sì. Merda, no? Pietro, sai una cosa? Sai quante volte ho litigato con Sgarbi in vita mia? Ho litigato una volta perché ci ha fatto praticamente saltare una trasmissione tantissimi anni fa, circa sette anni fa. L'ho vista, circa l'ho sette vista anni su YouTube, fa. C'è due bene. Ore di diretta, l'ho vista. Sono tutta. Molto contento che l'abbia vista perché fa parte ormai, è un cult della storia della televisione. Esatto, però esatto. Pietro, ci ho litigato spessissimo anche Gronchi rosa, è un gronchi esatto. Rosa. Praticamente ci ho litigato spessissimo anche in radio. Mi capita purtroppo di essere spesso d'accordo con lui, ma questo non vuol dire diventare Zerbino o leccare il deretano. No, assolutamente. Leccare l'unica il deretano. È che... Perché alcuni critici di Sgarbi, e non faccio i nomi, i nomi perché non voglio fare i nomi, alcuni molto critici di Sgarbi leccano, e quello davvero leccano il deretano ai piani alti del governo, ai piani altissimi chi? Del governo. Chi sono questi? Chi è questo? Pietro, dimmi che c'è. Pietro, dimmi che no, c'è. No, niente. No, ti volevo dire, no, sta cosa qua soprattutto mi... A me fa impressione il fatto che Parenzo ma non te non dica fa impressione niente. Nulla perché sei un cretino, posso dirti? Su cosa, ma, essendo un cretino non ti può fare impressione io. Niente. Ciao. Ma su che cosa lo dico io? Non ho capito. Ma che me ne frega di Pietro. Allora ragazzi, c'è una grande novità, c'è grossa novità direi, possiamo mettere la frasetta. C'è questa grande, è novità, questa è una grossa novità stasera. Allora, caro Parezzo, ti ricordi di Alessandra Cantini? Te la ricordi la signora Cantini? Come scordarla? Cantini, la Cantini, la signora Cantini. No, la signora Cantini? No, ma dai, come fai a non ricordarti Alessandra Cantini? Adesso la fai incazzare subito, dai, è stata qui in questa trasmissione tirando fuori le mutande. C'era un professore di letteratura medievale che si chiamava Cantini. Medievale, ha mostrato il culo durante la trasmissione di Chiambretti, non ti ricordi? Non è la stessa persona, non credo sia la ha stessa persona, un libro, anzi esclude. Ha scritto un libro in cui ha parlato delle donne e le femministe si sono incazzate. Vuoi che ti ricordo alcune sì, era anche a Firenze, a Prato, no dov'era che era? A Firenze era forse. Esattamente. Alessandra, buonasera, eccoci qui. Buonasera, Giuseppina. Ragazzi, si sente bene o si sente voi male? Voi avete avuto anche una relazione, o ricordo male, non perché avuto avete avuto una relazione. Una storia avete avuto forse in passato. No, no, non abbiamo avuto. Perché? Ma lo stesso giorno di mia mamma. Abbiamo solo questo legame. Ho sbagliato a prescindere, poi Oriana Fallaci è morta il 15 settembre. Quindi... Ma adesso questo è un altro discorso. Allora, la notizia però è questa: Alessandra Cantini, che ripeto, è una svalvolatina in senso positivo livornese, già famosa per le sue teorie sulle donne, non propriamente femministe, va in giro senza mutande e senza reggiseno, praticamente ha sostenuto che con la vagina è un libro, la donna può ottenere quello che vuole, a lei non piacciono i diritti politici delle donne, eccetera eccetera. Ha anche sostenuto che le prostitute sono sacre e la donna deve essere comunque al servizio dell'uomo, questo ha sostenuto, e questo ti sembra un buon motivo per chiamarla. Attenzione, ha deciso di dedicarsi al porno, questa è la notizia, cioè la notizia è questa. Ma capirai, no, ora non è che ho deciso di dedicarmi al porno, è che ero nella mia suite quando è scoppiata la quarantena, poi mi stavano buttando fuori, ero nervosa, ero con il mio cameraman giovane, sì, ci stavamo annoiando, abbiamo detto dai, su, giriamo un porno. Però l'avete messo su OnlyFans. No, invece l'ho messo su OnlyFans e da lì è esplosa la cosa su OnlyFans. Allora, ragazzi, se volete vedere la mia porno politica, l'annuncio è questo. Beh, comunque, ragazzi, no, non ho capito, ma con il cameraman cosa faceva lei col cameraman? Ha scopato col cameraman. No, in realtà annoiamo poco, perché sono per la teoria che la gente adesso, questo politicamente corretto, cerca di discriminare gli uomini a favore dei chihuahua, dei cani, degli animali, no? E io dico, adotta un toy boy, prendi uno giovane. E quindi ero in camera con lui e non ci annoiamo quasi mai, però gli abbiamo proprio detto, facciamola. E hai adottato, adottato un toy boy. Schizziamo proprio su uno schermastimo, cioè, buttiamola di fuori. Vabbè, questo hai fatto praticamente. Mio, la sua famiglia sarà amore, contenta di questa sua di scelta. E abbiamo iniziato a girare e poi adesso stiamo continuando a ospitare. Allora, la cosa è questa, molto semplice. Mi sa che hai bevuto un po' stasera. Si chiama Gregory lui, dunque. Fermo, giù. Allora, la cosa fondamentale è questa. Mi sembra di capire una cosa. La signora Alessandra Cantini ha messo nel sito OnlyFans, che è praticamente frequentato da moltissime persone, anche da grandi pornostar, ha messo dentro alcuni veri e propri filmati hard, si può dire così, filmati hard, in cui si mostra scopante, facente l'amore, trombante, con un signore che si chiama... La sua famiglia cosa dice? Gregory, che ha 20 anni ed è il suo toy boy, perché lei ha detto non adottiamo un cane, ma adottiamo... Ho detto non vergognarti di quello che sei, per quello ci sono i tuoi genitori, la mia famiglia, la tua famiglia non cosa? Non hai detto, non sanno nulla. Don't be ashamed of who you are. Cioè tua madre che ho conosciuto, for that, there are my parents. No, qui si parla in italiano. Allora, la tua madre che ho conosciuto sa che tu hai messo dei video porno in giro? Sì e no, ma mia mamma è piuttosto furbetta, mio padre invece è un po' puritano, mamma mia. Ma non lo sa tuo padre non che sanno. Sì e no, infatti metto le cose su OnlyFans. Gregorio mi stava caricando quel video su Pornhub, poi mi sono svegliata la mattina. Ma quanti anni ha sto Vittorio? Sto Gregorio, quanti anni ha? 20. 20, e tu quanti anni hai? 28. 28, no, non hai 28, di più ne hai. No, 28. 28, vabbè, 20, 28. Ho cioè... fatto un sacco di cose. Non ho capito, ma che. Ma che. Oscar Wilde, ma no, solo 28. Ma quanti video hai messo per adesso? Ma per adesso ho tre, alcuni li mando in privato, ma ora voglio farne di più perché voglio continuare la porno politica. Cioè, ma ho capito, ma praticamente ti sei data al porno, voglio politica. Cosa vuol dire? Però Però ti sei data al porno. Ho capito, vuoi scopare e parlare di attualità, però praticamente hai fatto dei film porno, perché diciamoci la verità, uno me ne ha anche mandato, ho detto, ma mandamene uno così vedo che cos'è. Cioè, hai mai mandato un piccolo frame di 10 secondi, ma chiaramente questo frame di 10 secondi è chiaramente un qualcosa di molto molto hard. Quello era quando ci annoiavamo la prima sera di 40 anni. Comunque, ragazzi, su OnlyFans, se volete andate a spendere, trovate la Cantini. Non solo col culo di fuori, come avete visto da Chiambretti, ma la Chiambretti. Solo con Gregory, davvero. Solo con Gregory. La Cantini che. Va bene. La Cantini che chiava con Gregory, questo è il punto fondamentale della vicenda. Beh, cosa ci interessa di tutta questa storia? Scusa, la Cantini che sbarca sul porno, cioè sbarca nel mondo del porno. Beh, questo è il punto. Una notizia incredibile. Ma perché l'ho fatto solo con lui? Perché ci divertiamo, in effetti il governo vuole che un po' di monogamia in questo senso, ho solo un pet, ho lui. Cioè non è una svalvolata, quindi, vera, è una svalvolata. Lo vuoi utilizzare come uno schiavetto in pratica? No, in realtà anche lui a volte mi caccia abbastanza, cioè quando... Ma non ho capito chi è che... A volte divento molesta io, sai. Ma ha intenzione di continuare? Molto sul lavoro invece. Ha intenzione di continuare su questo porno o no? Cioè... Sì, a me OnlyFans piace. Cioè non lo so, vuoi continuare, vuoi andare alla scuola di Siffredi? Vuoi andare alla scuola di Siffredi? Sì, ho detto oggi. Ho fatto la mia Repubblica delle Banane. Voglio Siffredi Presidente della Repubblica. Nicola Porro e Renzi che si giocano il Ministero degli Interni. Ma lascia perdere poi queste cose. Vittoria Feltri all'istruzione. Poi io alle pari opportunità. Sì. Io voglio te, Cruzani, al Ministero della Salute. No, la salute no, per carità, la salute no. La salute no, dammi la comunicazione, appunto. Altre cose no. Vabbè, Parenzo esteri. Alessà, ti abbraccio. Grazie, ciao, svalvolata, ciao. La Zanzara. Ma dell'erba! Qualcuno ha dell'erba! Ti prego! Ne ho bisogno! Erba calabrese, produzione propria. Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Cura dell'erba! Ne ho bisogno! Io ritengo che sia arrivato il momento per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Italia. Italia. Italia. Woo! Silenzio la vecchia. Ciao Crociani, il mio triangolo è composto di morbidi ricciolini biondi, perché sono bionda naturale, quindi sia di crine che di pelo. Ti interessa l'articolo? Adesso detto così, su due piedi come faccio, no? Detto così, Palenzo, su due piedi come si fa, su due piedi? Lo so, ormai la gente ti chiede questo, ormai è così. Ma io praticamente già il 29 marzo vi posterò il link del mio articolo sul blog. Sì. Ho chiamato il 1500 e ho proposto di usare il plasma dei guariti come cura al coronavirus, no? Quando? E mi hanno risposto dal 1500 che dovevano chiedere agli esperti. Non l'hanno detto che però io già prima che lo dicessero loro in televisione, che hanno fatto anche il servizio sul plasma dei guariti, no? Non hanno detto che io prima di loro già l'avevo detto, l'avevo dedotto. Non hanno detto quello. Si sono limitati a parlare di me, di Marciano, del Corvo, di gente varia, di Greg. Non hanno inserito nulla del Mauri, non hanno inserito nulla di Baratiri, che non fa altro che fare video sul 5G. E ti dicono alla prossima puntata. Vediamo se nella prossima puntata mettete questo video integrale, se siete uomini veri, ok? E se non siete delle marionette, perché voi questo siete delle marionette, capito? E la vostra informazione fa schifo, iene, la vostra informazione fa schifo. Andate bene con quelli come Billy Foster. Questa Questo è il demone incazzato con le iene. Incredibile, il demone incazzato con le iene. Poi, se posso permettermi, il fatto che lui dica che prima del professor De Donno già parlava dell'uso del plasma non fa una grande pubblicità al professor De Donno, verso il quale io non ho nessun sospetto, anzi, per me è una delle terapie valide. Ma il fatto che il demone scimmia dica che prima di De Donno aveva proposto questa cosa non crea una positiva pubblicità al professore. E intanto, ragazzi, ci siamo dimenticati di farvi sentire anche il signor Marcianoda, messo soprannominato ancora per l'ennesima volta Merdanò. Però non mi rompe i coglioni, perché significa semplicemente propalatore di cazzate, cioè ogni tanto di merda, per cui non mi rompe i coglioni. Che parla di esperimento sociale, il Covid come grande esperimento sociale. Anche questo che noi stiamo vivendo con questo stato di emergenza è una sorta di sperimentazione per vedere se la popolazione reagisce bene. Quindi è tutto un esperimento? Sì, è un esperimento sociale. È un business il 5G, è un business vendere vaccini. È proprio tutta una grande speculazione. È una grande speculazione finanziaria, logicamente chi pagherà è la popolazione. Sono minacciato di morte. Quindi tu pensi che in questo momento una parte dell'umanità sia usata come i topi in laboratorio, che stiano vedendo come in qualche modo noi reagiamo a tutto questo? Tutti gli elementi portano a questa conclusione. Siamo dei topi. Siamo dei topi da laboratorio, che però pagano le tasse. È per forza, perché sono stato minacciato di morte più volte. Ma tipo il proiettile nella busta? Anche. Anche il proiettile nella busta? Sì, sì. Proiettile, mi hanno spedito di tutto. Dimmene due o tre, senza entrare troppo in profondità. Beh, gli attentati di Parigi sono frutto dei servizi segreti francesi, europei e israeliani. Bataclan. Bataclan compreso. I vaccini sono dannosi. Come la vedi sui vaccini? I vaccini sono dannosi. E come avresti fatto col morbillo, col vaiolo? Come l'avresti affrontato? L'umanità ha sempre convissuto con i patogeni. Poi, guarda caso, tutto a un tratto. Beh, sono... ha sempre studiato come combattere, altrimenti non ci saremmo qui oggi. Ma noi, Sì, ma la poliomielite come l'hanno sconfitta? La polio con? Polio l'hanno sconfitta con l'igiene. Abbastanza, direi, Davide, no? Ne abbiamo abbastanza, direi, no? Io direi che ce n'è Ruben a sufficienza Pesaro. Per Ruben dire che è un criminale. Ruben da Pesaro, vai, Ruben, dimmi. Buonasera, Davide. Buonasera, dimmi. Cipriani. Adesso, sì, dopo ti chiamo Cipriani. Ma tu puoi chiamarmi come ti pare, non mi interessa. Livello di intelligenza peggio di Cipriani. Sì, non c'è. Cipriani chi? Scusa, ci sono tanti Cipriani, eh. La tua amica che hai invitato ieri sera lì. Sì, che lo stesso livello di intelligenza. Sì, come esattamente, guarda, esattamente. Ascolta una cosa, la gente non è incazzata con lei, caro mio, è incazzata con Giuseppe Cipriani per la figura di merda che ha fatto in TV. Sì, ma quando? Adesso David mi corregge. Ma quando, scusa, cretino, quando? Da Giordano, cretino di tua sorella. E quale sarebbe la figura di merda? Quando la gente ti attacca, ma quale sarebbe? Ma quale sarebbe? Deficiente, ma non c'era nessuno che attaccava. Non c'era nessuno che attaccava. Purtroppo, non c'era nessuno che attaccava. Che non sei altro. Perché tu calci Ruben, non c'era vai, ma non c'era nessuno che attaccava. Non c'era nessuno che attaccava. Non c'era battaglia. Non c'era battaglia. David, un cazzo, non c'era battaglia. Cretino. Sentiamo cosa dice. Sentiamo. Cretino di tua sorella. Mario ti ha fatto vedere la gente che non ha ricevuto neanche una lira. Ti ha fatto vedere. No, non me l'ha fatta vedere. Quella zanzara vecchia di Pivetti. Ma non me l'ha fatta vedere. Per la questione delle mascherine. Ma che c'entra? Quella è un'altra cosa. Ma c'era un'inchiesta a Roma. E allora? La reazione di Cipriani, David, qual era? Qual era? Cioè, qual era? È così. Ma non... una puttanella con i capelli unti. Uomo senza palle. Ma su che cosa? Ma su che? Cretino. Ho percepito questo. Ma su cosa, cretino? Dov'era la tua voce? Dov'era la tua voce che urli? Puttanella con i capelli unti, dov'era? questa qua è incredibile. Ruben da Pesaro, io sono incredibile, mi fai divertire, guarda, mi ma fai però dice delle palle, cose che meritano una riflessione, che cazzo ne so, sarà, uomo sarà argentino, colombiano, non so che cazzo sarà. Chiedi a tua sorella che sa meglio. Ma non lo so, mia sorella tranquilla, sei sta un tranquilla. Deficiente che non sei altro, quello che fa lo sburlone in radio, sì, urla, ma non ho capito, non ho capito bene, ma tu li conosci, ma tu li conosci Ruben, ma tu li conosci i contesti diversi tra la televisione e la radio, li conosci o no? Una mezza parola, sei una testa di cazzo, un'emerita testa di cazzo, Nicola dalla provincia di Mantova, stai zitto coglione. Ma quale figura di merda, non c'è stato manco possibilità di farla, magari l'avessi fatta, non c'era nessuno con cui battagliare, Nicola dalla provincia di Mantova, magari ci fosse stato, non c'era nessuno, Nicola dimmi Nicola, non c'è, Luciano da Firenze, vai Luciano. Pronto? Eccoci qua, dai. Oh. Levi viva voce. Io lo sai, Palenzo, cosa proporrei? Una bella manifestazione in piazza, con tutti nudi, con le mascherine alla bocca e le mutande al culo della Lines, perché un virallo ha detto che pure le scuregge diffondano il virus. Ma pensa però, che è genio questo! Però con le mani legate, perché questa è una dittatura. Fammi capire, c'è la piazza disse, del Carmine oggi, era disse, piena di gente, con i bambini. Era piena di gente perché ci potevano andare, con le distanze ci potevano andare, Luciano. No, con le distanze, c'è le casinate, erano zeppe di bambini e di mamme. E allora? E allora? E allora dico, allora? Ma da che allora dico, ma da che parte sta la legge? E allora dico, cioè, la legge da che parte sta, dico, la legge? E l'ambulanza dov'è? I medici, dove sono i medici? Fermi sono tutti, impegnati fermi in cose tutti più importanti, i medici, fermi purtroppo. La zanzara. Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Salvini, ma lei fa i bocchini. Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. Nicht dazu gehören, nicht sehen, reden oder hören. Doch jede Nacht für ein, zwei Stunden. Seguitemi, parleremo di culame in generale. Visitos! Nacht ein bisschen früh. Mein Organsach am Weltempfänger. Ma che cretina è Valentina Nappi? Cioè, non argomenti. Sciacquami la gallera, Parenzo, sciacquami la gallera. Ma vaffanculo, va! È normale. Luciani, finalmente l'apertura più importante c'è stata. No, Cristiano, no, no, assolutamente. Luciani, per favore, non mi puoi cadere sulla traduzione dal napoletano. La dottoressa Ponina ieri sera ha giustamente suggerito che per facilitare il cunnilingus è necessario che la donna ruoti il bacino verso l'alto. Non ha detto che apra la figa, per favore. Già dicono che tu odi i napoletani, ma pure che non li capisci mi sembra esagerato. E poi in materia di figa, Crux, noi tutti ci aspettiamo di meglio da te. Luciani, finalmente l'apertura più importante c'è stata. No, Cristiano, no, no, assolutamente. Vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta, tanta, tanta paura? E questo è fondamentale. Non capisco Cristiano, che è l'ascoltatore di prima che ha mandato il messaggio, anzi, la fidanzata di Cristiano, a cosa si riferisce? Quando dice no, l'apertura, che chissà che cos'è, Parenzo, questa roba qua, non si capisce bene che cos'è. Comunque, vabbè. Nicola da Mantova, dai Nicola. Devo portare un'informazione scientifica. Sì, cioè, siamo qui. Il plasma sicuramente funziona, perché ormai da anni che funziona. Però il professor Silvestri della Emory University di Atlanta ha fatto una dichiarazione interessante, cioè dice noi l'adoperavamo al tempo dell'Ebola, l'abbiamo cominciato ad operare il primo marzo anche gli americani, però lui non è d'accordo in questa leggenda metropolitana che parte il plasma dalle città, dagli ospedali lombardi, e che non ritiene che debbano insegnare ai barbari americani. No, no, nessuno vuole insegnare niente ai barbari americani. Cioè, qui si sta parlando di una cosa che viene sviluppata tra Mantova e Pavia, cioè l'utilizzazione del plasma dei guariti. Quindi non è che non la conosco molto bene. La conosci bene, perché sei un medico? Sì, sono ex primario, ma è positivo, non è quello. Cioè, tu dici non c'è niente di nuovo, cioè non è una cosa nuova. No, è giusto che venga applicato, è giusto, però bisogna aspettare i risultati. Ma no, c'è anche ma si sta, ho capito, ma se già, dice, scusami Nicola, guardi che questo non è, il tema. È che semplice. Parta semplice. Tutto dall'Italia e da Mantova o da Pavia. Ma no, ma lasciamo perdere da dove passa. Il punto fondamentale, la cosa stupida è il complotto, l'ipotesi del complotto, che anche Salvini ha avallato. Lascia perdere Salvini. Nicola, c'è un punto fondamentale in questo. I pazienti che finora, almeno secondo questo professore, secondo anche Pavia, che si sono sottoposti a questa cura, hanno avuto benefici molto alti. Si può dare credito in questo momento in cui c'è grande incertezza una cosa di questo tipo? Si può dare credito a questa cosa oppure no, secondo te, che hai fatto anche il primario? No, certo che si deve dare credito. Io sto si dicendo sta già dando credito. Che bisogna anche dare una certa verità storica e scientifica. Ma sì, ma quello d'accordo. Ma però insomma, ci sono altre persone che ti dicono, ma non è che Mantova, sì, ma qualcuno ha detto, qualcuno d'accordo, ma qualcuno ha detto no, però ci sono le controindicazioni del plasma. No, no, perché no, le controindicazioni no, non ci sono, altrimenti quelli che fanno le trasfusioni, plasma. Dai. Il plasma, avendo anticorpi, non ha in controindicazione, va bene. Ho capito, ma nessuno dice né che è una cosa rivoluzionaria, né che è una cosa che parte da Mantova, né che è una cosa così. Il punto fondamentale è un altro, è quello. La gran cassa mediatica è stata fatta. Doveva essere fatta a Pavia, perché diciamo, il protocollo è stato fatto a Pavia. Sì, Pavia, come vi ho detto l'altro ieri. Sì, ma lasciamo perdere adesso queste rivalità, non mi interessano queste rivalità. No, non è rivalità, è un buon ristabilire la verità delle cose. Sì, però quando c'è qualcuno, senza togliere nulla, scusami Nicola, quando c'è qualcuno che invece dall'altra parte dice vabbè sì, però noi preferiamo, che ne so, delle cure, cioè preferiamo dei farmaci piuttosto. L'ha detto Burioni, l'ha detto. No, Burioni l'ha detto. Guardi, Burioni l'ha detto, però in realtà il plasma, la terapia del Covid, è un cocktail di farmaci, tra cui anche questo, che va anche bene. Sì, però il plasma è sicuro, non è che non sia sicuro il plasma, no, come dopodiché che produca dei risultati, che produca dei risultati, non lo so. Può avere dei problemi, mi scusi, può avere dei problemi, perché nel plasma oltre agli anticorpi lei mette altre cose. Certo. Quindi bisogna là purificarlo e farla dire. Questo voleva dire Burioni, hai capito? Voleva purificare la parte che serve, perché uno può introdurre col plasma. Insomma, anche quando altre questo cose. Tizio qua dice a me mi chiamano tutti anche dagli Stati Uniti e nessuno dall'Italia si fa vivo. Vabbè, e ci sarà... vabbè, ma lei non immagina che ci possano anche essere, diciamo, non interessi economici, per carità, me ne guardo. Però dice un po' di esibizionismo. Ma c'è qualcuno che può costruire anche l'immagine di certe persone. Lei lo sa meglio di me questo. Va bene, grazie Nicola. Marco dalla provincia di Ascoli. Marco, provincia di Ascoli, vai. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Senti, io non so se ne avete parlato, però tra 8 giorni la Bundesliga in Germania ricomincia a giocare. Sì, no, ma figurati. Qui da noi in Italia, cioè, so che con te sfondo una porta aperta, perché ma come sfondo una porta apertissima? Oggi ci sono 3, 4, 6 positivi, non 3 giocatori della Fiorentina. Domani ci sarà non la gran cassa. Ma chi te l'ha detto che non è una priorità? È una puttanata quello che dici una tu. Ci sono altre centinaia di sport. Ma cosa c'entra? Ma cosa cazzo dici? Ma dice delle cose inaudite. E quindi prima di io riaprirei prima i bar, i ristoranti. Ma cosa c'entra? Non c'entra niente. I tamponi non li facciamo ai medici, li facciamo ai calciatori. Ma non dire stronzate. I tamponi li facciamo ai calciatori. Ma è un'industria del paese, lo vuoi capire o no? Non si sono che fatti prima i medici e gli infermieri e li volete fare ai calciatori? Comunque, amico mio, ho capito. Marco, si sono fatti agli infermieri e li fate ai calciatori? Hai perfettamente ragione. Luigi D'Ancona, vai Luigi. Gente che non sa come impegnare la domenica e ha bisogno del pallone. Dimmi Luigi, dimmi. No, io volevo dire una cosa che questa volta va a tuo vantaggio, no? Io scusate se dico in maniera pesante, mi sono veramente rotto il cazzo, di rotto il cazzo, sì, di coloro che chiamano